Mi telefona un'amica che è spinta dal bisogno e costretta ad esercitare un mestiere che, per quanto rispettabile, non consiglierei a mia figlia se ne avessi una. Fa la responsabile di una collana editoriale di narrativa. Ciao, come stai? Tutto bene? Cosa stai facendo di bello? Scambiamo i soliti convenevoli, ma è evidente che lei non è nella forma migliore, che c'è qualcosa che la rovella, e me lo dice subito. Infatti sta rivedendo la traduzione del prossimo volume della sua collana, opera la traduzione, dico, di una conoscente comune, un'altra creatura che svolge per denaro un'attività che a una figlia non consiglierei, anche perché ne ho fin troppo esperienza personale. E non è soddisfatta. Pensa, mi dice, ha lasciato tutte le D eufoniche, è da 2 ore che le sto togliendo. Una noia bestiale. La D eufonica, come senz'altro saprete, è quella consonante dentale sonora che, secondo le norme del retto scrivere italiano, si inserisce in coda a certi monosillabi che escono in vocale quando per vocale comincia la parola successiva, per evitare lo iato. La D di ad arrivare. Ed invece, ed egli, ad ogni costo, simili, no? Oggi non se ne prescrive più l'uso come una volta. È sempre raccomandata quando le due vocali da separare sono identiche, per cui si dice ad abbondanza, ed evidentemente, ma quando le due vocali sono diverse se ne fa volentieri a meno. Si preferisce dire a ogni costo, e ognuno, tanto per intenderci, no? Comunque, regole precise non ce ne sono, e quando mancano le regole, la responsabilità resta dell'autore, che può fare un po' come gli pare e piace, no? Alla mia amica le D eufoniche non piacciono, e dal testo che deve passare in tipografia le sta togliendo tutte, cosa che col computer è abbastanza facile, ma richiede una quantità di tempo ed è seccata. Io invece tendo a vedere le cose dalla possibilità dal punto di vista di chi il testo lo scrive, e non mi sento d'accordo con lei. Senti, le dico, ma ne hai parlato alla traduttrice? Gliel'hai chiesto? Lei cosa ne dice? E in fondo, scegliere di mettere o non mettere le D eufoniche è una responsabilità sua. Figuriamoci se le chiedo il permesso, risponderei piuttosto risentita. Io gliel'avevo detto prima di non metterle, e nella mia collana un libro con le D eufoniche certo non esce. Al che cambio discorso, perché evidentemente non ci intendiamo e non vorrei mettermi a litigare. Tra l'altro anch'io sto traducendo un testo per lei, e anche se io di solito le D eufoniche non le metto, se continuassimo in questo dibattito la tentazione di mettercele tutte senza dubbio finirebbe col venirmi, e chissà come andremmo a finire. Perché problema? Il problema in definitiva è meno futile di quanto sembri a prima vista. Vedete, uno compra un libro su cui figura il nome dell'autore, se nel caso quello del traduttore, e crede che questi due personaggi siano quelli a cui spetti la responsabilità di quanto sta per leggere, e sono loro che lo firmano. Quello che non sa è che il testo, sia originale o sia tradotto, è passato per le mani di un po' di altre persone che si sono sentite in diritto di modificarlo. Quasi tutte le case editrici affidano i libri da pubblicare a un editor, adesso si chiama in inglese, che può identificarsi o no col direttore di collana, ma comunque è uno che, avendo uno stipendio da guadagnare, deve guadagnarselo, proponendo le sue modifiche. Che so, asciugare il testo, che vuol dire tagliarlo, o allungarlo, o sottolineare certi particolari e sfumare su certi altri. Certe volte persino cambiare il finale o l'impostazione dei personaggi, non so. Le traduzioni si riferiscono a dei testi ormai accettati e definiti, però spesso i redattori addetti i loro interventi li fanno d'ufficio senza neanche chiedere il permesso a nessuno, e non tanto per togliere gli errori, che credete a me che traduco da 30 anni, se per caso ti scappa un vero errore di traduzione, che può sempre capitare, puoi essere sicuro di rivedertelo stampato nell'edizione. Mentre invece qualcuno si è accanito sul tuo testo cambiando delle parole che avevano il solo difetto di non piacergli, no? Devo avervi raccontato già un paio d'anni fa la storia di quel redattore che in una mia traduzione non voleva la parola senza casa, perché secondo lui bisognava scrivere senza tetto. Abbiamo litigato, lui ha sul libro è uscito senza tetto naturalmente invece che senza casa, io ho protestato, e da allora quella casa editrice da lavorare non me ne dà più. Poi tutti intervengono d'ufficio per uniformare, come dicono loro, gli usi ortografici, la punteggiatura, queste cose qui, e per eliminare o aggiungere le diofoniche, che può sembrare una cosa da niente, ma in realtà non lo è. è che vedete, non c'è niente di male nel consigliare un autore o un traduttore su come migliorare l'opera da presentare al pubblico leggente. I consigli servono sempre, ma se ti vengono da uno che sulla tua opera, per così dire, ha diritto di vita e di morte, nel senso che sai benissimo che se non accetti i suoi consigli non te la pubblica, beh, non sono proprio tanto consigli quelli. E anche se tu sei soltanto un traduttore, hai comunque il diritto a far rispettare le tue scelte stilistiche, ortografiche e lessicali. Di modi per tradurre un testo da una lingua in un'altra ce ne sono infiniti e sono tutti giusti, ma sei tu che firmi la traduzione e sei tu che devi sceglierne uno. È il tuo dovere, perché ti pagano per quello, ed è anche il tuo diritto, perché lo firmi. Naturalmente il problema di fondo è quello dei criteri che costoro adibiscono per modificare il lavoro altrui. La signora di cui vi ho parlato ha tutti i diritti, naturalmente, di esigere che le sue istruzioni siano rispettate, per di più ama i libri e ha molto gusto, probabilmente convinta di migliorarli, e nessuno al mondo riuscirà mai a persuaderla che non è suo compito migliorare i libri altrui, che l'unica opzione di cui dispone, se non le piacciono, è quella di non pubblicarli, che è già abbastanza, è già tanto. Se nel complesso le piacciono, ma in qualche particolare no, non è poi una tragedia. Decida se correre o non correre il rischio e lasci giudicare i lettori. Ma questa è una cosa da niente. Insomma, gli editor delle grandi case editrici invece non ragionano in termini di piace o di non mi piace. Loro tengono d'occhio il mercato, per loro il criterio di leggibilità si confonde con quello di vendibilità, che vuol dire che di dare al pubblico quello che desidera e togliere agli autori la possibilità di dargli quello che desiderano loro, cioè magari di innovare qualcosina, perché l'innovazione dal punto di vista delle vendite è notoriamente pericolosa. È difficile per un aspirante autore farsi pubblicare, ma è ancora più difficile pubblicare un suo libro come lo ha scritto. Invece è facilissimo per chi conosce le persone giuste accordarsi con il tale editor o col tale direttore di collana e produrre sotto la sua supervisione il più banale dei bestseller. Se ci pensate un momento vi verranno in mente gli esempi adeguati.